Ho visto tanta gente schifarmi davanti, per poi chiamarmi e pregarmi. Ho visto tanta gente schifarmi davanti, per poi chiamarmi e pregarmi. Stanco di tutte queste parole, stanco di tutte queste paranoie, stanco di fissare il tetto per ore. Ogni parola va dito nel cuore. Ehi, non mollo un cazzo, non ho via contento. Credo solo in me stesso. Ho trovato la forza in me, quella che avevo perso. Posso anche non andare a tempo, ma so bene perché amo ciò che sto facendo. Sto seguendo il mio sogno, se ci sto credendo. Ho paura di una cosa, solo il tempo. Non è troppo, però è rimasto fermo. A capo nella zona, senti come suona. Colpo su colpo, combo su combo. So come il mostro, sono diverso. Forse da piccolo ho sbattuto il cranio. Diverso al punto è che il mostro è la finanza nell'armadio. Fumo fumo, sto in allenamento. Io, però non capisco cosa stai trasmettendo. Ora che mi metto in zona stai scomparendo. Quelli come te, li detesto. Droga al controllo, in ogni test. Io sempre fresco, flex, flex. Nel mio universo, oggi esce il tape. Lo dici sì, ma da 2006. Quando mi vedi strada coi miei, perdi il controllo tipo Sasha Grey. Tipo Sasha Grey, tipo Sasha Grey. Ehi ehi, sempre l'ultimo a perdere il controllo. Pronto per il conto, pronto per il volo. Mi guardi mentre rollo, divento il tuo orgoglio. Prenditi pure il diploma, è pur sempre un foglio. Scrivo solo la verità. Amo questo fottuto gioco del rap. Ehi.